si chiama Mercurio. È un pianeta piccolo e sta vicino al Sole. È il pianeta più caldo perché è vicino al Sole. Ha una la crema solare per andare su Mercurio. Abbiamo messo la crema solare per non scostarci.